Bibbia Martini. Primo libro dei Re 13. Un profeta di Giuda va a trovare Geroboam. Predice la distruzione dell'altare e la nascita del re Giosia. Alle preghiere del medesimo è risanata la mano di Geroboam, che era inaridita. Il profeta nel suo ritorno è ucciso da un leone per avere disubbidito al comando di Dio. Ma Geroboam va crescendo nell'impietà. Quando ecco che un uomo di Dio si portò da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboam stava all'altare, e vi gettava l'incenso. E a nome del Signore esclamò verso l'altare: «Altare, altare, queste cose dice il Signore, ecco, che nascerà la famiglia di Davide un figliuolo per nome Giosia, e questi immolerà sopra di te i sacerdoti dei luoghi eccelsi, i quali sopra di te bruciano adesso gli incensi, ed ei farà bruciare sopra di te le ossa degli uomini», e ne diede a lor questa prova, dicendo: «Che il Signore sia quegli che parla, da questo il vedrete, ecco, che l'altare si squarcerà, e la cenere, che vi è sopra, si spanderà». Ma il re udite le parole dell'uomo di Dio, dette ad alta voce contro l'altare di Betel, stese la mano sua dall'altare, dicendo: «Prendete costui», e la mano che gli aveva stesa contro di lui si seccò, né poté egli ritrarla a sé. E si spaccò ancora l'altare, e la cenere dell'altare si disperse, e la qualcosa era stata predetta in prova dall'uomo di Dio a nome del Signore. E il re disse all'uomo di Dio: «Prega il Signore Dio tuo, e fa orazione per me, affinché sia mi renduta la mia mano». E l'uomo di Dio fece orazione al Signore, e il re riebbe la sua mano, la quale tornò qual era prima. E il re disse all'uomo di Dio: «Vieni meco a casa a desinare, e io ti regalerò». Ma l'uomo di Dio rispose al re: «Quando tu mi dessi la metà della tua casa, non verrò io con te, e non mangerò pane, né berrò acqua in questo luogo, peroché tale è il comando fatto a me dal Signore, che mi ha spedito: tu non mangerai pane, né berrai acqua, e non tornerai per la strada, che farai all'andare?» Egli adunque se ne andò per strada diversa, e non tornò per quella che aveva fatta venendo a Betel. Ora abitava a Betel un vecchio profeta, i figliuoli del quale andarono a raccontargli tutto quello che aveva in quel di fatto a Betel l'uomo di Dio. E riferirono al padre loro le parole che quegli aveva dette al re. E il padre disse loro: «Per qual parte se è egli andato?» E i suoi figliuoli gli additarono la strada per cui se era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Ed egli disse a suoi figliuoli: «Ammannitemi l'asino», e quando fu ammannito, vi salì sopra. E andò dietro all'uomo di Dio, e trovollo che sedeva sotto un terebinto, e dissegli: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Rispose quegli: «Son io». E quegli disse a lui: «Vieni meco a casa a mangiar del pane». E quegli rispose: «Non posso tornare indietro, né venir con te, e io non mangerò pane, né berrò acqua in quel luogo, peroché il Signore mi ha parlato di sua propria bocca, e mi ha detto: non mangerai cola pane, né berrai acqua, e non tornerai per la strada per cui sarai andato». E quegli disse a lui: «Io son profeta, come sei tu? E un angelo ha parlato a me a nome del Signore, e mi ha detto: rimenalo teco a casa tua, affinché mangi del pane, e beva dell'acqua». Lo ingannò, e lo ricondusse seco, ed egli mangiò del pane in casa di lui, e beve dell'acqua. E mentre ei sedevano a mensa, il Signore parlò al profeta, che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli esclamò, e disse all'uomo di Dio, venuto da Giuda: «Queste cose dice il Signore, perché tu non hai ubbidito alla parola del Signore, e non hai adempito quello che il Signore Dio tuo ti comandò, e sei tornato indietro, ed hai mangiato del pane, e bevuto dell'acqua in un luogo, dove io ti comandai di non mangiar pane, né bere acqua, il tuo cadavere non sarà portato nel sepolcro dei padri tuoi». Or quando il profeta che gli aveva fatto tornare indietro ebbe mangiato e bevuto, quegli ammannì per lui il suo asino. Ed essendo egli partito, un leone lo incontrò per strada, e lo uccise, e il suo cadavere restò a giacer sulla strada, e l'asino stava presso di lui, e il leone presso al cadavere. Ora venne, che dei passeggeri osservarono il cadavere, che giaceva sulla strada, e il leone, che gli stava dappresso, e andarono, e divulgarono la cosa nella città, dove abitava quel vecchio profeta. E quel profeta, che lo aveva fatto tornare indietro, avendo udito tal cosa, disse, «Egli è l'uomo di Dio, che è stato disubbidiente alla parola del Signore, e il Signore lo ha dato in balia di un leone, il quale lo ha lacerato, e ucciso secondo la parola detta a lui dal Signore». E disse a suoi figliuoli, «Ammannitemi l'asino». E quando fu ammannito, egli andò, e trovò il suo cadavere gettato sulla strada, e l'asino, e il leone, che stavan presso al cadavere. Il leone non aveva mangiato il cadavere, né fatto alcun male all'asino. Il profeta vecchio pertanto prese il cadavere dell'uomo di Dio, e lo pose sull'asino, e tornando indietro lo portò alla sua città per piangerlo. E pose quel cadavere nella sua sepoltura, e lo piansero, dicendo, «Ai, ai, fratel mio!» E dopo che l'ebber pianto, dissegli a suoi figliuoli, «Quando io sarò morto, seppellitemi nel sepolcro, in cui giace l'uomo di Dio, accanto alle ossa di lui ponete le ossa mie. Impero che si verificherà certamente la parola predetta da lui a nome del Signore contro l'altare, che è a Betel, e contro tutti gli adoratori dei luoghi eccelsi, che sono nelle città di Samaria». Dopo tali cose Geroboam non si convertì dalla sua pessima vita, ma pel contrario creò sacerdoti dei luoghi eccelsi, uomini infimi del popolo, chiunque voleva, si consagrava, e diventava sacerdote dei luoghi eccelsi. Così la casa di Geroboam peccò, e fu distrutta, e sradicata dalla superficie della terra. Note, 13,1. Un uomo di Dio si portò eci. La maggior parte degli interpreti credono che questo profeta fosse Addo, ossia Ieddo, come lo chiamano gli ebrei, di cui vedi due. Paral. 9, Eci 13,2, altare, altare. Ecco che nascerà Eci il profeta per maggior enfasi rivolge il suo discorso non al re, ma all'altare, e predice la distruzione dell'empio culto esercitato sopra lo stesso altare. Giosia nacque circa 340 anni dopo questa profezia. Ma Dio, cui tutto è presente, fa nominarlo pel proprio suo nome, e annunzia in qual modo quest'ottimo principe vendicherà l'onore del vero Dio, e sterminerà fino agli ultimi avanzi dell'idolatria introdotta da Geroboamo. Una simile predizione fatta in tal luogo e in tali circostanze è in faccia al primo re di Israele e a tutta la sua corte, e accompagnata da prodigi che ne vengono in appresso, dovette essere notissima a tutta la nazione, come ne fu notissimo l'adempimento. Ella diviene perciò questa profezia una prova invincibile della vera religione e della previdenza di Dio verso la Chiesa. 13,3. L'altare si squarcerà. Con la predizione di una cosa che succederà di presente, conferma l'annunzio delle cose a venire. 13,6. E il re riebbe la sua mano e ci è ammirabile la bontà di Dio verso di questo principe. Egli lo sollecita a ravvedersi con le profezie, con prodigi, e finalmente coi restituirgli il libero uso della sua mano. Con tutto ciò Geroboam persiste nella sua orribile ostinazione. 13,9. Non mangerai pane, né berai acqua, Eci. Dio aveva dato quest'ordine nel profeta, a fin di mostrare con quale orrore dovesse riguardarsi l'impietà del re e della sua gente, con la quale non vuole che il profeta abbia veruna comunicazione, o anzi, come se in strada stessa, che menava a Betel fosse impura ed esecranda, gli ordina di fare altra via nel suo ritorno. 13,11. Abitava a Betel un vecchio profeta, Eci. Noi crediamo con S. Agostino, S. Girolamo, Teodoreto ed altri, che questo fosse un vero profeta, un uomo pio e fedele, impero che, come osserva Teodoreto, Dio per mezzo di lui predisse all'uomo di Dio quello che doveva avvenire, ed egli credette alla predizione dello stesso uomo di Dio riguardo a Giosia, onde a suoi figliuoli ordinò che dopo la sua morte, insieme con quello lo seppellissero. Che se esse Gregorio e qualche altro interprete lo chiaman profeta falso, possiam credere che ciò intendano relativamente alla menzogna di cui si valse per indurre l'altro a ristorarsi in sua casa, avvor non vuo dubbio che in questo egli peccò. Benché con buon animo e per compassione verso l'uomo di Dio stanco e affamato mentisse. 13,18-19 Lo ingannò, e lo ricondusse e ci peccò il profeta che si lasciò svolgere dalla menzogna a violare l'ordine espresso e indubitato ricevuto da Dio, ogni egli sapeva che Dio è verità, ma l'uomo e può ingannare e ingannarsi, ogni doveva sospettare, anzi credere bugiardo e ingannatore un uomo che gli diceva il contrario di quello che gli aveva detto il Signore. 13,20 Il Signore parlò al profeta, che ci. Alla stessa mensa riceve il profeta il suo gastigo, e la sentenza di morte è intimata a lui da quello stesso che lo aveva indotto a disobbedire. 13,24 Un leone lo incontrò, e lo uccise. Incomprensibili giudizi di Dio? Il profeta è ucciso da una fiera per una, possiam quasi dire, non volontaria disobbedienza, Geroboamo re di tali e tante impietà, distruttore della religione, vive tranquillo. Chi non riconoscerà in questa condotta di Dio la infallibile dimostrazione delle ricompense e delle pene della vita a venire? È comune opinione dei padri che la morte della carne accettato in spirito di penitenza salvo lo spirito del profeta, opinione ben fondata sulla scrittura, come notò S. Agostino de Cura pro Mort. Capitolo 7. Fin qui volle Dio punire il suo servo, il quale non per sua propria ostinazione aveva trasgredito il comando, ma ingannato dalle menzogne altrui credette di obbedire, allorché fu disobbediente. Però che non è da credere che dopo essere stato ucciso da quella fiera, l'anima di lui fosse affascinata all'inferno, mentre il corpo di lui fa custodito dalla stessa leone, che era stato il suo carnefice, e rimase illeso lo stesso asino che la parlava, il qual asino con inaudita intrepidezza si stava in compagnia di questa bestia feroce attorno al cadavere del suo signore. Da quali segni conoscesi chiaramente come l'uomo di Dio fu temporalmente punito fino alla morte, ma non dopo la morte. 13,31 Seppellitemi nel sepolcro, e ci così egli ordinò, affinché le sue ossa non fossero bruciate da Giosia con quelle degli idolatri, e ottenne l'intento. Vedi 4. Regione 23esimo. 18,13,32 Si consacrava. Letteralmente, empieva la sua mano, frase usata sovente, quando si parla dei sacerdoti dell'ordine di Aronne. Vedi quello che abbiam detto. Exod. XVI, 41.